Dialog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. È arrivato il tempo di modificare la normativa vigente affinché l'Italia si allinei agli altri paesi europei, liberalizzando per i cittadini ormai adulti la possibilità di conoscere importanti informazioni sanitarie ed anagrafiche dei genitori naturali. Auguri, madre, dal volto sconosciuto! Vogliamo conoscere le madri che ci hanno donato la vita. Lo slogan spiega il lungo percorso che è la ricerca delle proprie origini e le sue ragioni. Per i figli adottivi un'esigenza più diffusa rispetto al passato, quella di rimettere insieme i tasselli della propria vita, di ritrovarsi adulto e chiedersi chi sono, da dove vengo. È sicuramente un bel problema, lo sente su la sua pelle in maniera più tenace e a volte anche più atroce chi lo vive il problema, cioè di non sapere le proprie origini biologiche e avere il bisogno disperato per ricomporre appunto dei pezzi della propria vita di sapere da chi si è nati. D'altra parte esiste anche l'esigenza di chi mette mondo un figlio e non vuole più avere nulla a che fare con questo figlio. Non entro in merito a giudizi di tipo etico e morale, è comunque una volontà che è possibile, viene ammesso il diritto di mettere al mondo una vita e poi non volersene più occupare, dando disposizione che qualcun altro lo adotti, lo prenda in carico. Ora, proprio in ottemperanza con delle norme europee, si sta lavorando su una legge che invece lascia delle maggiori aperture da parte dei figli biologici di conoscere le origini, di conoscere i propri genitori. L'insieme di alcune proposte di legge, un testo unificato, già è arrivato alla Camera e si sta lavorando appunto su questa legge. Siccome vorrei capirne di più, mi interessa perché è un passaggio non indifferente rispetto all'atteggiamento che potrebbe avere una donna rispetto a una vita che sta coltivando ma che è assolutamente decisa a non sentirne più la responsabilità addosso. Luisa Di Fiore, buongiorno. Buongiorno. Luisa Di Fiore, presidente dell'associazione Figli Adottivi e Genitori Naturale, FINE. Ci spiega in termini semplici, perché ho visto che è abbastanza complessa la normativa su cui si lavora, perché c'è tutta una serie di eccezioni, di possibilità, la possibilità di conoscere se non il genitore, perlomeno per motivi sanitari, alcune possibili patologie ereditarie o elementi utili per la propria salute, andando ancora avanti, possibilità che venga chiesto al genitore che ha espresso la propria volontà di non voler più nulla avere a che fare con i propri figli se casomai ci avesse ripensato. Vediamo se è possibile semplificare questi concetti che mi sembrano abbastanza difficili e su cui ci sarà un dibattito sicuramente complesso. Sì, ha detto benissimo, l'argomento è molto complesso, è complesso perché trasversalmente tocca emozioni, tocca diritti giuridici e tocca anche tante fasce di età e di generazioni. Consideri che oggi sono circa 400.000 gli adottati dagli anni 50 ad oggi. Io rappresento, diciamo, la generazione degli anni 50-60 che avevano una storia completamente diversa da quella che vivono i figli adottivi attuali. Allora, cioè erano... In che senso diversa, per capire? Era diversa perché la tipologia di madri, sì. Socialmente la donna aveva un ruolo completamente diverso da quello di oggi, non esisteva la normativa anche per poter abortire e l'unica strada percorribile per poter lasciare un figlio che non si poteva crescere era quella di non riconoscerlo alla nascita, e spesso però venivano anche fatti questi figli senza consapevolezza, quindi non c'era neanche la cultura della contraccezione e quindi era una realtà completamente diversa. Cioè, tutto avveniva spesso clandestinamente, erano le famose zie che mandavano in campagna un periodo, tornavano, nessuno sapeva che avevano fatto un figlio, così funzionava nelle famiglie. Esatto, però lo potevano fare tranquillamente nelle strutture ospedaliere già in quegli anni, quindi non riconoscendo il figlio, partorendo in anonimato e tornandosene a casa, diciamo, avendo fatto anche un gesto, se vogliamo, a livello normativo lecito e anche a livello di coscienza. Poi com'è cambiato? Nei decenni com'è cambiato? poi nei decenni è subentrata la consapevolezza della maternità e la donna ha potuto comunque avere un ruolo finanziariamente significativo nella società. Culturalmente una madre single era accettata, cosa che all'epoca non lo era, e nello stesso tempo c'è anche, diciamo, la possibilità di abortire invece che abbandonare un figlio. Può scegliere, quindi, di interrompere, diciamo, la gravidanza, quindi oggi, esatto, diciamo, la scelta di tenersi un figlio è una scelta consapevole, ma anche con una ancora maggiore consapevolezza e coscienza, perché uno potrebbe anche non farlo nascere il figlio. Questa nuova generazione come si comporta? Mantiene sempre lo stesso tipo di desiderio comunque di non averne mai più a che fare con questo figlio? Una puntualizzazione molto importante. Oggi come ci si comporta? Ci si comporta come ci si comportava negli anni 50 da parte di persone che vengono da paesi diversi, che hanno una cultura forse simile a quella nostra degli anni 50. Oggi, figli di stranieri. Esatto, quindi diciamo c'è una differenza in questo senso. E per quanto riguarda invece la norma, ecco perché lei mi ha chiesto di sintetizzare, tenga presente che fino al 2001 non è stato possibile in nessun modo, in nessun caso, chiedere informazioni riguardo ai genitori biologici, alla madre in particolare. Nemmeno per motivi sanitari. Allora, sulla carta per motivi sanitari si poteva fare la richiesta, ma le statistiche ci dicono che nella maggior parte dei casi queste richieste sono state respinte anche in casi gravi, e proprio una delle persone che si è battuta per questo cambiamento della legge è stata proprio la protagonista di un caso di questo tipo. Quindi diciamo sulla carta c'era questa possibilità, nella pratica non c'era. Allora, 800 24 0024 dal numero dei nostri ascoltatori, perché sicuramente chi ci ascolta in questo momento è lambito in prima persona o nella sfera delle sue conoscenze da un problema simile. La domanda che ci poniamo è: ritenete corretto che ci sia una legge che permetta di sanare questa ferita che sembra sempre molto lacerante e molto grave in un figlio naturale, un figlio adottato, una persona che non sa nulla della sua famiglia d'origine, di poter perlomeno avere una chance che venga avvertita la madre di dire: guarda, c'hai un figlio che ti vuole vedere, dipende da te decidere o no? Altresì pensate che sia un ulteriore stress per la persona che potrebbe sentirsi un rifiuto, o per la persona che ha cambiato vita completamente e nel bene o nel male, senza che nessuno possa giudicarla, non vuole proprio più nemmeno sentirle parlare di quel figlio. 800 24 0024. Io l'anno scorso ho deciso, di dopo 40 anni, di scoprire che cosa era successo 40 anni fa, quindi la vera storia della mia adozione. Ho avuto la fortuna, tramite documenti, di conoscere il nome di lei, e fondamentalmente la storia voleva che queste due vite si rincontrassero, perché ho scoperto il suo nome e cognome, dove abitava. Ho deciso di scrivere una lettera molto serena, pacata, per ringraziarle e dire che è andato tutto bene, ma il destino ha voluto che nello stesso momento in cui io scrivevo quella lettera, lei si stava chiedendo come mai io da 40 anni non la cercassi, e quindi quella lettera, poi il destino ha voluto che arrivasse in un solo giorno e ci siamo incontrati. È stata una diga che si è aperta, perché lei ovviamente era da 40 anni che mi cercava, che tutti gli anni festeggiava il mio compleanno, e adesso abbiamo ricostituito una nuova famiglia. Si insegue un motivo. 800 24 0024, arrivano sms che mi complicano ancora più la vicenda, che già in sé non è semplice. Mi domandano con gli uteri in affitto, per i figli in provetta. Limitiamoci al momento a pensare ai figli adottati, poi affronteremo il problema in un'altra trasmissione, visto che il tempo è poco. Avevo interrotto Luisa Di Fiore, che ricordo presidente dell'associazione Figli Adottivi e Genitori Naturali. Vediamo, lei mi ha fatto un primo excursus, mi ha detto che fino al 2001, se non sbaglio, c'era una sala cinesca abbassata, la massima tutela per la donna che sceglieva di non voler più avere nulla a che fare con i figli. Poi cosa è cambiato? Poi nel 2001 è stata data la possibilità ai figli riconosciuti alla nascita e poi successivamente adottati con sentenza del tribunale di fare istanza ed essere accontentati, e quindi di poter risalire alle proprie origini. Quindi si è creata anche una non uguaglianza e parità di diritti tra figli adottivi, quindi quelli riconosciuti. Ma con il consenso della madre o solo a madre morta, tanto per essere chiari? No, in quel caso il figlio era stato riconosciuto dalla madre alla nascita, ma poi la sentenza sentenza del tribunale per motivi di qualsiasi natura, ha reso adottabile questo figlio. Quindi il figlio adottivo, ma riconosciuto alla nascita, poteva accedere alla conoscenza delle sue origini, mentre il figlio non riconosciuto, e quindi i figli adottivi non riconosciuti alla nascita, quelli protagonisti di questa proposta di modifica della legge, e sono rimasti, diciamo, con questa saracinesca, come la La documentazione esiste comunque per tutti. Assolutamente sì, però quindi tenga anche presente che stiamo sempre parlando maggiormente di figli di epoche in cui anche l'organizzazione amministrativa non era sicuramente computerizzata, poteva essere organizzata in modi diversi da città o piccoli paesi o comuni, per cui insomma può esserci anche, diciamo, una difficoltà a risalire ai documenti, ma in ogni caso questi poi sono, diciamo, le situazioni soggettive. Allora, fermiamoci solo un secondo. La documentazione c'è. Solo un secondo per dare le informazioni del traffico, un attimo solo, riprendiamo con lei proprio fra un minuto. Melog, cronache meridiane. Stiamo parlando di come potrebbe cambiare la legge per i figli adottati che vogliono risalire alle proprie origini biologiche. Sentiamo Flavio, l'ascoltatore, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione, vi sento tutti i giorni. Niente, la mia opinione al riguardo è che i figli hanno il sacrosanto diritto di sapere chi sono i genitori, o comunque di poter esercitare diciamo la volontà di sapere chi sono i genitori. Se poi il genitore a quel punto lì rifiuta, diciamo, di farlo sapere, questo è un altro diritto che comunque gli spetta al genitore, però il figlio ha comunque il diritto sacrosanto, cioè il diritto di chiedere, perché vanno a confliggersi. Il genitore non vuole essere assolutamente riconosciuto e il figlio lo vuole conoscere, c'è un conflitto, chi decide? Io penso che il primo diritto è quello del figlio, che ha il diritto di sapere chi sono i genitori. Questo è il suo... Sì, il suo punto di vista è il punto di vista, penso, delle persone, delle associazioni che stanno muovendo in questo diritto. Cioè, noi alla fine, a un'età avanzata, perché non è che sono bambini, si parla di persone che sono state concepite negli anni 50, 60, 70, mi sembra di aver capito. Dice, a questo punto vorremmo saperne di più, perché è un tassello della vita che per noi è indispensabile. Anna, buongiorno. Salve, niente, io ho 59 anni, a me mi hanno adottato ed effettivamente quando vado dal medico così c'è il problema, dice malattia in famiglia e niente, e questa la sento come una handicap, non è tanto il discorso di conoscere dal punto di vista sentimentale, perché sinceramente da quel punto di vista non ho desideri, però oggettivamente, soprattutto io ho due figlie, ho avuto un problema con una delle due figlie, e quando mi chiedono problemi in famiglia, per me è un problema, insomma. E dovrebbero fare una scheda, non so, qualcosa che uno possa almeno sapere se ha delle dare ereditarie. Mi sembra che la legge su cui stanno lavorando vada in questa direzione. Allora, Luisa Di Fior, ricordo, presidente associazione figli adottivi e genitori naturali. A questo punto c'è una biforcazione. Da una parte c'è il desiderio emotivo, legittimo, esistenziale di conoscere le proprie radici, dall'altro c'è un motivo essenzialmente pratico. Per i progressi che ha avuto oggi la medicina, la diagnostica, la cura e la prevenzione delle malattie genetiche, c'è il diritto sacrosanto di sapere: sì, mi hai messo al mondo, mi hai lasciato, ma fammi sapere almeno nel mio DNA cosa mi hai lasciato. La legge va in questa direzione? La legge va in questa direzione, ma soprattutto questa è una direzione che può in qualche modo essere soddisfatta da quello che avverrà da qui in poi. Al momento ancora no, mi sembra di aver capito. No, anche perché i dati che venivano lasciati in altre epoche erano dei dati sanitari molto semplici, molto sintetici. Oggi invece alle donne che partoriscono in anonimato si può proprio chiedere di depositare tutte le informazioni sanitarie, quindi diciamo c'è uno spaccato tra quello che è il passato e quello che sarà da qui. Voi lavorate per il futuro, che mi sembra aver capito. Perché... In tutti e due i sensi, perché noi cerchiamo anche di dare questo diritto importante a chi nel passato è stato concepito e oggi rimarrebbe nel limbo, quindi una folta massa di persone come me, della mia età, che non sarebbero nella condizione di conoscere la propria identità, la propria storia e nello stesso tempo non poter accedere a nessun dato sanitario, anche minimo che sia. E non poter, mi perdoni, una cosa molto importante di cui non si è parlato, è anche il ritrovamento di fratelli, di sorelle, di parenti. Nello specifico io ho avuto questa esperienza positivissima e la stragrande maggioranza delle persone hanno avuto esperienze di questo tipo positive. Ecco, noi poi glielo devo dire in coscienza, cosa vi fa pensare che tutti siano veramente soddisfatti di scoprire a distanza di 15 anni di avere dei fratelli o delle sorelle? Mi viene di pensarlo, di dirlo, capito? Perché potrebbe... Non sono soddisfatti, io infatti non ho asserito questo. Per qualcuno può essere anche traumatico scoprire che la madre ha avuto altri figli e non lo sapeva. Ma assolutamente, io le parlo perché sono anni che siamo in questa realtà, oltre che quella personale, quella di tante, tante altre persone. Oggi siamo circa 2300 nella nostra associazione e le statistiche, ma non statistiche ufficiali, ma le nostre esperienze ci dicono che l'importante è fare questo passo e avere il diritto di farlo nel lecito, perché fino ad oggi i ritrovamenti sono stati fatti in modo artigianale e spesso dannoso. Artigianale che vuol dire? Corrompendo funzionari? Artigianale vuol dire che anche se non corrompendo, comunque andando a fare una serie di richieste agli uffici predisposti e anche poter utilizzare la distrazione in buona fede di un impiegato, e guardare un attimo. Succede. Ecco, ci può dare le informazioni, poi con le informazioni in mano si rischia di gestire male la situazione e quindi di fare quei danni che invece con una normativa ben precisa e con l'aiuto di strutture tipo il tribunale, questi danni non vengono fatti. Una cosa, dottoressa, proprio è importante sapere, per chiarirlo subito, gli aspetti patrimoniali e di successione sono esclusi a questo tipo di ricerca? Assolutamente, perché l'adozione prevede che un figlio, nel momento in cui viene adottato, giuridicamente diventa figlio a tutti gli effetti della famiglia che l'ha adottato, quindi non può assolutamente accedere all'asse ereditario dei genitori biologici. Sentiamo Giovanni. Giovanni, buongiorno. Salve Nicoletti. Intanto grande rispetto per la sua figura professionale, ma io... Beh, mica è morta, è ancora viva, grazie. No, io ci mancherebbe. No, grande simpatia per lei. No, quello che volevo dirle è che la mia vita è stata non sconvolta di più, perché i genitori adottandi, io ho scoperto da solo che ero stato adottato, i miei non mi dissero nulla, però ho percepito da situazioni ambientali. L'ha capito, su. Il commentino del vicino di casa, il cuginetto che non voleva giocare con me perché la zia aveva remore che questo bambino che arrivava da chissà dove fosse una persona strana, eccetera. Però io ho subito proprio una forma... Me lo immagino. Poi lo sanno tutti, meno che il soggetto. Poi te lo dice esatto. Il compagno di scuola, ma tu sei adottato, lo sai. Esatto, tutti. Il bambino che ti dice io so un segreto che se lo dico a tutti nessuno gioca più con te. Madonna queste mia, forme terribile. Di violenze... Al punto, vada al punto però. No, purtroppo poi quello che ho subito in casa, oltre al fatto di avere a un certo punto bisogno di, come dire, di trovare questa linea materna per poter venire al dunque sulla mia malattia, che poi stiamo indagando anche sul figlio, per quindi adesso ho un figlio di 7 anni, bellissimo, però mi tocca fare delle visite, quando mi chiedono ma lei è la madre, eccetera, io mi fermo con un sorriso e dire perché io ho i documenti di quando ero nato nel 62 e basta. No, no, e quando il Brefrotrofia di Como mi ha lasciato, perché io sono stato adottato da una famiglia, poi sa, le condizioni di questi genitori adottandi erano tremende, perché mio padre poi è morto di alcolismo, io veramente mi sono trovato in casa dalle situazioni ambientali. Diciamo che non aveva nulla da rimproverarsi rispetto a quelli di origine. Vediamo, io sono convinto che questa istituzione così sacra, sacralizzata che la famiglia, andando avanti della civilizzazione digitale, possa un po' allentare le sue forme di contenzione, anche se uno poi fa un figlio e lo dà in affidamento a qualcun altro, non c'è nessun male se mantenga comunque un rapporto, perlomeno di conoscenza, da chi geneticamente l'ha messo al mondo. A presto!